Dai discorsi di San Bernardo Abate. A che serve dunque la nostra lode ai santi? A che il nostro tributo di gloria? A che questa stessa nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre Celeste li onora? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal nostro culto. È chiaro che quando ne veneriamo la memoria facciamo i nostri interessi, non i loro. Da parte mia devo confessare che quando penso ai santi mi sento ardere da grandi desideri. Il primo desiderio che la memoria dei santi o suscita o stimola maggiormente in noi, è quello di godere della loro tanto dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti beati, di trovarci insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato degli apostoli, agli eserciti numerosi dei martiri, alla comunità dei confessori, ai cori delle vergini. Di essere, insomma, riuniti e felici nella comunione di tutti i santi. Ci attende la primitiva comunità dei cristiani e noi ce ne disinteressiamo? I santi desiderano di averci con loro e noi ce ne mostriamo indifferenti? I giusti ci aspettano e noi non ce ne prenderemo cura? No, fratelli, destiamoci dalla nostra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano, affrettiamoci verso coloro che ci aspettano, anticipiamo con i voti dell'animo la condizione di coloro che ci attendono. Non solo dobbiamo desiderare la compagnia dei santi, ma anche di possederne la felicità. Mentre dunque bramiamo di stare insieme a loro, stimoliamo nel nostro cuore l'aspirazione più intensa a condividerne la gloria. Questa bramosia non è disdicevole, perché una tale fame di gloria è tutt'altro che pericolosa. Ma c'è un secondo desiderio che viene suscitato in noi dalla commemorazione dei santi ed è quello che Cristo, nostra vita, si mostri anche a noi come a loro e noi pure facciamo con lui la nostra apparizione nella gloria. Frattanto, il nostro capo si presenta a noi non come è ora in cielo, ma nella forma che ha voluto assumere per noi qui in terra. Lo vediamo quindi non coronato di gloria, ma circondato dalle spine dei nostri peccati. Si vergogni perciò ogni membro di far sfoggio di ricercatezza sotto un capo coronato di spine. Comprenda che le sue eleganze non gli fanno onore, ma lo espongono al ridicolo. Giungerà il momento della venuta di Cristo, quando non si annuncerà più la sua morte. Allora sapremo che anche noi siamo morti e che la nostra vita è nascosta con Lui in Dio. Allora Cristo apparirà come capo glorioso e con Lui brilleranno le membra glorificate. Allora trasformerà il nostro corpo umiliato, rendendolo simile alla gloria del capo che è Lui stesso. Nutriamo dunque liberamente la brama della gloria, ne abbiamo ogni diritto. Ma perché la speranza di una felicità così incommensurabile abbia a diventare realtà, ci è necessario il soccorso dei santi. Sollecitiamolo premurosamente, così per loro intercessione arriveremo là dove da soli non potremmo mai pensare di giungere.